Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ho avuto il gradito piacere di vivere in due biosfere. Ovviamente tutti noi viviamo nella biosfera 1, ma io ho anche vissuto nella biosfera 2. La cosa meravigliosa di questo è che ho potuto paragonare le due biosfere e spero di aver imparato qualcosa da questo. Cosa ho imparato? Nella biosfera 2, per poter fare la pizza, ho raccolto il grano per poter fare l'impasto e poi ovviamente ho dovuto mungere le capre e nutrirle per poter fare il formaggio. Mi ci sono voluti 4 mesi per fare una pizza nella biosfera 2. Qui nella biosfera 1 ci metto 2 minuti, perché prendo il telefono e dico: «Ehi, mi potete portare una pizza?» La voce che avete appena sentito è quella di Jane Poynter, biologa inglese che vive per 2 anni insieme ad altri 7 scienziati all'interno di una cupola sigillata. Costruita fra il 1987 e il 1991, Biosfera 2 viene progettata per contenere un ecosistema completo e autosufficiente, con lo scopo di studiare le applicazioni per una futura colonizzazione spaziale. Si tratta di un esperimento scientifico senza precedenti, che consente di studiare la crescita di piante e animali, i cicli vitali degli organismi viventi, il riciclo di aria ed acqua. L'ente fondatore del progetto, la Space Biosphere Ventures, realizza una struttura avveniristica a Oracle, in Arizona, su un'area di circa 12.000 metri quadrati. Al suo interno vengono ricostruiti una barriera corallina, una foresta di mangrovie, una savana, un deserto, un sistema di campi coltivati e una zona destinata alle abitazioni e ai laboratori. La prima missione dura dal 1991 al 1993 ed è guidata dal patologo Roy Walford, sostenitore della cosiddetta restrizione calorica. La longevità massima degli esseri umani è di circa 110 anni, dei topi circa 39 mesi. La restrizione selettiva delle calorie disponibili nella dieta ha esteso la longevità massima dei topi da 39 mesi a 56, che in termini umani corrisponderebbero in proporzione a 158 anni. Inoltre, i topi longevi rimangono giovanili nell'apparenza, nelle abilità fisiche e mentali e dimostrano una superiore resistenza alle malattie. Questi ben noti risultati sono la ragione per cui la restrizione calorica è oggi una delle principali aree di ricerca in gerontologia e per cui essa sta ricevendo urgente attenzione dall'Istituto Nazionale sull'Invecchiamento statunitense. Roy Walford e i suoi colleghi si trovano effettivamente a poter mangiare molto poco mentre sono all'interno di Biosfera 2. L'esperimento porta a risultati inattesi. In particolare si verifica una produzione insolitamente alta di anidride carbonica prodotta dai batteri presenti, che provoca la morte di un gran numero di piante e disturbi ai partecipanti e agli animali. Ma il contributo forse più interessante all'esperimento, del tutto inaspettato, viene dato alla psicologia, che studia i conflitti in gruppi isolati di umani. Già nella prima missione si verificano alleanze strategiche, innamoramenti, litigi, ma è la seconda missione, quella che parte nel 1994, che è impressionante sotto questo profilo. Dopo appena 32 giorni di convivenza, l'equipaggio litiga furiosamente e vengono distrutti alcuni pannelli, violando l'integrità della cupola e causando la sospensione dell'esperimento. Oggi Biosfera 2 è impiegata dall'Università dell'Arizona come laboratorio di ricerca sul clima e per studi scientifici sull'utilizzo e lo sviluppo delle risorse del nostro pianeta, come sottolinea il ricercatore Matt Adamson, coordinatore del progetto. Lo scopo della nostra ricerca è quello di valutare come meglio sfruttare le nostre risorse, creando dei modelli di comportamento sia dei governi che dei singoli individui. Sicuramente Biosfera 2 è un progetto fondamentale per la ricerca scientifica. Non vi è nulla di analogo in tutto il pianeta che permetta di monitorare dalle precipitazioni alla composizione dei gas atmosferici e destinato a rivestire un ruolo preminente nello studio del surriscaldamento del pianeta. È anche un'attrazione turistica che accoglie oltre 100.000 visitatori all'anno. Ma quello che forse non tutti sanno è che se Biosfera 2 non è riuscito per ora a rispondere alla domanda per la quale è stato costruito, e cioè se l'uomo potrebbe sopravvivere su un altro pianeta all'interno di una biosfera chiusa, ha di certo contribuito in maniera decisiva allo studio della natura umana su questa Terra. Le difficili relazioni che si creano all'interno di Biosfera 2 rappresentano il primo involontario esperimento di convivenza forzata di esseri umani che sia mai stato attuato su un piano di ricerca scientifica. Biosfera 2 è un esperimento scientifico realizzato a Oracle, in Arizona, negli anni 90, che vede la ricostruzione all'interno di una cupola di un ecosistema perfettamente funzionante e completamente isolato dal mondo esterno. All'interno della biosfera vivono alcuni scienziati che divengono in maniera del tutto inaspettata essi stessi parte dell'esperimento. I promotori del progetto si aspettano infatti risultati più o meno interessanti sotto il profilo naturalista, pensando di ottenere informazioni sulla crescita delle piante, sul funzionamento complessivo dell'ecosistema, sull'adattamento degli animali alla situazione. Quello di cui non si è tenuto invece conto è ciò che succede alla psiche umana, ai partecipanti, che benché tutti scienziati, sono prima di tutto persone obbligate a convivere in uno spazio ristretto e a svolgere una vita estremamente dura, a stretto contatto con la natura, a coltivare la terra per poter mangiare, a evitare con tutte le proprie forze di danneggiare l'ambiente per non mettere in pericolo la propria sopravvivenza. Questo richiede un grande spirito di adattamento, una grande pazienza. E sfocia in una difficoltà di rapporti spesso sorprendente, a volte violenta, insopportabile, quella stessa che fa dire a Jean-Paul Sartre, nella sua opera teatrale A porte chiuse, la sua frase forse più conosciuta. L'inferno sono gli altri. Un uomo sta pensando proprio a questa frase di Sartre. L'inferno sono gli altri. È seduto nel suo ufficio e sta leggendo una rivista scientifica che riporta in maniera dettagliata la storia di Biosfera 2. È interessato alla scienza fin da piccolo, ma quello che lo colpisce di più nell'articolo che sta leggendo è l'aspetto umano. Che l'inferno siano gli altri lo pensa da tempo. Le relazioni tra le persone, che siano familiari o colleghi di lavoro, studenti o conviventi, sono complesse e spesso nefaste. È una sua ferma convinzione da sempre. Il suo nome è John De Molla. John De Molla. La sua professione lo porta a lavorare in team e a poter quindi osservare l'interazione fra le persone, ma è da quando è piccolo che ha idee molto chiare sull'argomento. Johannes Hendrikus Hubert De Molla, detto John, nasce a L'Aia, in Olanda, ma la sua famiglia si trasferisce presto a Hilversum, vicino ad Amsterdam. È un ragazzo molto volitivo. A casa è estremamente vivace. A scuola è un allievo senza infamia e senza lode, ma con una intelligenza fortemente spiccata. Adora gli sport, gioca al calcio. Gli riesce anche bene. È un semiprofessionista, ma lui si convince che non è la vita che vuole. Non lo sa ancora quello che vuole. Mentre frequenta le superiori durante le vacanze, si trova un lavoretto per guadagnare qualcosa. Radio Nordsee International è un'emittente pirata che nei primi anni 70 trasmette musica da un vascello di 9 metri, il Mebo II, ancorato fuori dalle acque territoriali olandesi. John tiene in ordine l'archivio dei dischi. Mentre controlla alcuni arrivi, sta pensando al suo futuro. Non si vede seduto dietro la scrivania di un ufficio, in una banca, in un'azienda qualsiasi. Non si vede né medico né ingegnere, ma neanche calciatore. Lui vuole lavorare nello spettacolo. È la televisione che lo attira maggiormente, ce l'ha nel sangue. Il nonno è un direttore d'orchestra, il padre un cantante piuttosto noto. Per il momento gli va benissimo una radio privata come la Nordsee. Per questo, quando finisce la scuola, inizia a fare il DJ. Di musica ne sa abbastanza. E poi è un tipo decisamente sveglio, impara in fretta. Le sue caratteristiche piacciono molto. È tranquillo, di bell'aspetto, colto, gentile, ma ha anche un'astuzia innata che gli fa avvertire in maniera istintiva quello che piace alla gente. Anni più tardi, in un'intervista, lui stesso sottolinea questa sua caratteristica. Ho sempre saputo istintivamente che le persone si appassionano veramente solo ai grandi temi della vita. Nascita, morte, amore, matrimonio. Raccontare questi eventi, farli vivere in prima persona, crea un interesse particolare, da cui è difficile dissociarsi. Sono questi gli argomenti che rendono un programma un sicuro successo. John diventa giornalista sportivo, riuscendo a mettere a frutto le sue conoscenze di calciatore. Ma poi arriva finalmente dove voleva. Inizia a lavorare alla TROS, l'equivalente olandese della RAI, dove diviene direttore di produzione del programma Studio Sport. Ma lui vuole di più. La sua idea è quella di aprire una sua casa di produzione dove realizzare programmi ideati da lui. È conscio delle proprie capacità e, pur essendo un uomo piuttosto modesto, ha le idee molto chiare. L'occasione gli si presenta quando Sky Channel gli chiede di realizzare alcuni programmi e lui fa il grande passo, fonda la John De Mol Productions. È il 1979 e lui è poco più che un ragazzo, ma la sua determinazione è totale. Per alcuni anni si barcamena fin quando non arriva a un ingaggio vero. La TROS gli commissiona 100 episodi di una nuova serie televisiva. Medisch Centrum West è ambientato in un ospedale di provincia e affronta tutti i temi etici e i dilemmi personali che si verificano all'interno di una struttura del genere. È molto innovativo perché tratta dell'eutanasia, dell'aborto, fa piangere raccontando le vicende di malati terminali di cancro, delle loro famiglie, ma fa anche gioire quando nasce un bambino o un malato riesce a sconfiggere la sua patologia. Il successo di Medisch Centrum West fa conoscere in tutta l'Olanda la De Mol Productions e John può ritenersi contento del suo risultato. Nel giro di breve tempo gli arrivano altre produzioni e soprattutto gli vengono in mente alcune idee di format che hanno un buon successo, da Love Letters a All You Need Is Love, che successivamente diviene famosissimo in Italia con il titolo di Stran'amore. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. John De Mol è un giovane produttore televisivo olandese che realizza una serie di programmi di discreto successo. Medisch Centrum West, un serial ambientato in un ospedale. Love Letters e All You Need Is Love, che avrà una grande risonanza nel nostro paese col titolo di Stran'amore e la conduzione indimenticabile di Alberto Castagna. John è sicuramente soddisfatto dei risultati ottenuti, ma il suo desiderio è quello di trovare idee nuove, mai realizzate, che possano far decollare la sua casa di produzione e farla conoscere in tutto il mondo. È un giovane decisamente ambizioso e pieno di idee. Sta leggendo su una rivista scientifica alla quale è abbonato i resoconti della missione Biosfera 2 e sente che c'è qualcosa di estremamente affascinante in quel progetto. L'esperimento che si sta svolgendo nel deserto dell'Arizona vede 8 scienziati, 4 uomini e 4 donne, rinchiusi all'interno di una cupola isolata dal resto del mondo. Un perfetto ecosistema che dovrebbe risultare del tutto autosufficiente. L'esperimento ha esiti molto interessanti sotto il profilo scientifico, ma decisamente inaspettati sotto quello dei rapporti umani, tanto che John decide di approfondire. John De Mol sta ascoltando un'intervista a una delle partecipanti, la biologa Jane Poynter. Credevo di essere preparata ad entrare nella Biosfera 2 in questo ambiente assolutamente isolato. Si crearono da subito 2 fazioni ben distinte, ciascuna composta da 4 persone, 2 uomini e 2 donne. È un fatto abbastanza comune tra gente che vive in ambienti ristretti. Capita nello spazio, capita in Antartide. È una cosa che succede, ma è terribilmente spiacevole. È una cosa che ti spezza il cuore quando è un tuo amico o una tua amica a mettersi dall'altra parte. E io ne avevo 2 di amici nell'altra fazione. L'interazione tra persone obbligate a convivere in un ambiente ristretto e in qualche modo private della libertà di movimento è un argomento interessantissimo e apre un mondo intero di possibilità. A questo sta pensando John De Mol. Sarebbe bello poterne parlare in un programma, portare sul piccolo schermo le sensazioni di un gruppo di persone che si confrontano, si raccontano, mostrano il meglio ma anche il peggio di sé. John è convinto che riuscire a realizzare un programma del genere significherebbe ottenere un successo stellare. Di una cosa è certo al 100%, che le persone si interessano in maniera morbosa al destino degli altri, si immedesimano nelle situazioni, vivono la realtà altrui. John si sta convincendo sempre di più di quanto l'animo umano sia amante di questo sistema di trasferimento di sentimenti. Basta guardare con quanto attaccamento il pubblico segue le vicende dei programmi seriali, delle soap opera, delle fiction, dei telefilm in più puntate. Sai cosa c'è? C'è una girandola che ruota intorno a me. Se le persone si appassionano così tanto a vicende che tutti sanno benissimo essere finte, costruite a tavolino, create dalla penna e dalla fantasia di un autore, che cosa potrebbe succedere se invece si trattasse di vicende vere? Se fossero le persone stesse a raccontarsi, se si potesse per così dire spiare la loro vita di tutti i giorni, John è certo che la gente se ne starebbe incollata allo schermo televisivo. E se è vero che tenere un certo numero di persone rinchiuse in un ambiente limitato porta alla creazione di fazioni, come le chiama Jane Poynter, se tra le quattro mura di un luogo chiuso ci si innamora, si litiga, si piange, si ride, le possibilità di creare un programma di successo si moltiplicano a dismisura. John sta pensando a tutto questo e più ci pensa più si convince che è un'idea grandiosa. C'è un problema però. Realizzare qualcosa del genere è a dir poco costosissimo e lui, perlomeno per il momento, è un produttore con una disponibilità limitata. L'idea mi era venuta in un baleno. Nelle sue linee essenziali si era formulata nella mia mente già mentre leggevo l'articolo sulla Biosfera 2. Poi, quando avevo sentito le dichiarazioni degli scienziati che raccontavano di come litigavano, si azzuffavano, si erano innamorati e poi lasciati, avevo capito che era l'idea con la I maiuscola. Peccato però che un programma del genere non si era mai fatto e realizzarlo sarebbe costato uno sproposito. John sta pensando a come fare per poter realizzare la sua idea. Non ha dubbi sul valore di quello che ha in mente. Sa che si può fare, ma sa anche che costa tantissimo e che da solo non ce la può fare. Un progetto come il suo prevede infatti la costruzione di un ambiente chiuso. Certo, non grande e attrezzato come Biosfera 2, ma di sicuro un luogo dove un gruppo di persone possano convivere insieme, mangiare, dormire, fare delle attività. E il tutto seguito da una o più telecamere per poter essere registrato e poi mandato in onda. Questo significa avere una mega produzione alle spalle e un investitore che creda nel progetto. L'ideale sarebbe trovare un socio, qualcuno che abbia più o meno le sue stesse capacità, che colga le opportunità di un'idea così e che divida con lui onori e oneri di quel progetto. Ma chi? Nella sua testa continua chissà perché a frullare una parola, litigio. Jane Poynter racconta che quando si trovava all'interno di Biosfera 2, i partecipanti litigavano sempre. Beh, anche lui litiga sempre con qualcuno. In effetti, John ha un avversario, il suo antagonista da anni, un altro produttore come lui, il suo rivale storico. E se smettesse di litigarci e gli proponesse di far litigare gli altri, invece? Destini incrociati. Destini incrociati vi racconta oggi una storia decisamente particolare. Si potrebbe definire la riappacificazione di due rivali. Non sono due rivali in amore, non sono due sportivi che si contendono un qualche record. Sono due uomini che litigano per accaparrarsi i migliori ascolti televisivi. E proprio così, i nostri protagonisti di oggi sono due produttori televisivi. Sono entrambi olandesi e più o meno svolgono la stessa professione nello stesso posto. John de Mol, che dopo una breve esperienza in una radio privata inizia a lavorare come direttore di produzione alla TROS, la televisione pubblica olandese, fonda nel 1979 la sua casa di produzione, la John de Mol Productions, e si dà parecchio da fare, realizzando alcune serie di successo. Mentre sta leggendo una rivista scientifica, una passione che ha fin da piccolo, incappa in un articolo che descrive con dovizia di particolari la vicenda di Biosfera 2, un esperimento effettuato in Arizona che vede 8 scienziati, 4 donne e 4 uomini, rinchiusi per ben 2 anni all'interno di una cupola trasformata in un perfetto ecosistema autosufficiente. L'esperimento doveva fornire una serie di dati di carattere scientifico, ma in realtà si rivela molto più interessante e istruttivo sotto il profilo del comportamento umano. Questo fa venire in mente a John DeMol un'idea per un bellissimo programma televisivo, ma si tratta di un progetto talmente costoso che John non può farcela da solo. Ha bisogno di un socio. Ecco perché decide all'istante di coinvolgere il suo rivale di sempre, Joop van den Ende. Joop van den Ende. Sono anni che John e Joop si contendono il primato degli ascolti televisivi con le loro produzioni e tutti li considerano rivali e nemici giurati. Johannes Adrianus van den Ende, detto Joop, nasce nel cosiddetto quartiere indonesiano di Amsterdam nel 1942. Suo padre è un conducente di locomotive e lui se lo ricorda come un grandissimo lavoratore. Il paese esce dalla Seconda Guerra Mondiale con ferite profonde, difficili da rimarginare, ma la gente ha tanta voglia di ricominciare a vivere e a divertirsi. Joop respira a pieni polmoni questa sensazione. Lo spettacolo ce l'ho nel sangue. Ci sono proprio nato con questa passione. Era una cosa tutta mia, perché in famiglia non c'era nessuno che avesse qualche passione artistica. Avevo solo 6 anni, pensate, quando organizzai un teatrino di marionette per i miei vicini di casa. Joop coltiva la sua passione, va a scuola di recitazione e inizia a lavorare nelle feste con un gruppo di attori come lui. Ma in mente ha ben altro. Mentre si sta truccando per uno degli spettacoli del suo gruppo di cabaret, The Peppers, comprende che come attore non farà mai una grande carriera, ma come organizzatore è imbattibile. Ecco perché prende una decisione. Diventerà un produttore televisivo. Il suo primo ingaggio importante è un grosso evento in occasione dell'inaugurazione del tunnel sotto il porto di Amsterdam. Joop opziona una serie di artisti di alto livello. Sarà la regina Giuliana in persona a tagliare il nastro e lo spettacolo deve essere grandioso. Peccato però che le cose non girino proprio come Joop si immaginava. Lui stesso lo racconta anni dopo in un'intervista. La regina Giuliana inaugurava il tunnel. Ho anche una foto con lei. È stata una foto costosissima, 70.000 fiorini. Avevo organizzato un'esibizione con molti artisti famosi. Tutto quello che doveva fare la gente era comprare un biglietto. E peccato che nessuno lo fece. Per fortuna la ruota gira e i lavori successivi di Joop van den Ende si rivelano più proficui del primo. È famosa la sua produzione teatrale del Cyrano di Bergerac, che rimane in cartellone per ben 2 stagioni. Finalmente Joop ha raggiunto quello che sognava, guadagnarsi da vivere lavorando nel mondo dello spettacolo. È venuto il momento di creare una sua casa di produzione vera e propria, la Joop van den Ende Productions, che il fondatore decide di stabilire a Dalsmiar, nel nord dei Paesi Bassi. Mentre seduto nel suo ufficio si sente davvero felice. Sulla sua scrivania è aperto in bella mostra, perché possano vederlo tutti i suoi dipendenti, il contratto che la Tross gli ha appena restituito firmato. La sua struttura è appena diventata la casa di produzione del programma televisivo Showbiz Quiz, una sorta di chi vuole essere milionario legato al mondo degli attori e dello show business. Joop van den Ende è un produttore televisivo olandese che dimostra, fin da piccolissimo, una passione innata per il mondo dello spettacolo e riesce a creare una casa di produzione di ottimo livello. Realizza programmi televisivi e spettacoli teatrali di grande successo. Dopo Showbiz Quiz, produce anche The Surprise Show, una sorta di caramba che sorpresa, che riscuote anch'esso un grande interesse da parte del pubblico. Joop è abbastanza soddisfatto dei suoi risultati, anche se certo le sue produzioni non varcano i confini olandesi. L'unica vera spina nel fianco, se così la si può definire, si chiama John DeMol. John è il suo rivale, un antagonista di grande livello. Come lui è un produttore televisivo, come lui realizza programmi sia per la Tross, l'equivalente olandese della Rai, sia per altre emittenti, ed è anche un produttore teatrale. Ma certamente per entrambi il committente più importante è la rete pubblica, che analizza costantemente gli ascolti dei suoi programmi. 5, 4, 3, 2, 1. 1 BTA. Telegiornale della sera della UBS con Howard Bill. Pronti la 2? 2? Via Howard. Buonasera. Oggi è mercoledì 24 settembre e questa è la mia ultima trasmissione. Ieri ho annunciato durante questo programma che io mi sarei pubblicamente suicidato. Chiaramente un gesto da pazzi. Sapete perché l'ho detto? Avevo esaurito le cazzate. È la scena forse più significativa di Quinto Potere, il grandissimo film di Sidney Lumet del 1976 con Peter Finch, amara parodia del mondo della televisione, del cinismo dei suoi artefici e della lotta per la conquista di ascolti sempre più alti. Un film che in più di una occasione Joop van den Ende cita paragonandolo a quello che spesso accade all'interno degli uffici direzionali nelle reti televisive. Tra lui e John De Mol è guerra aperta. I due cercano sistemi sempre più furbi, tecniche di comunicazione sempre più azzardate, scoop in diretta e personaggi che facciano parlare di sé anche in maniera poco ortodossa. Tutto pur di vincere nel confronto degli ascolti. Per questo, quando la sua segretaria gli annuncia che John De Mol ha telefonato per fissare con lui un incontro, Joop van den Ende rimane decisamente sorpreso. Destini incrociati. A Destini incrociati stiamo per assistere a un incontro storico. Ci troviamo ad Alsmeer, nel nord dei Paesi Bassi. È il dicembre del 1993 e negli uffici della Joop van den Ende Productions, casa di produzione televisiva e teatrale di grande successo, arriva il rivale di sempre di Joop, John De Mol, titolare della John De Mol Productions, altra famosa casa di produzione olandese. I due uomini, che hanno entrambi al proprio attivo una serie molto lunga di successi televisivi e teatrali e che da anni vivono una rivalità divenuta pubblica, stanno per incontrarsi. È stato John De Mol a chiedere di parlare con il suo antagonista di sempre, quel Joop van den Ende che in più di una occasione gli ha rubato lo scettro del produttore più seguito dal pubblico. Mentre in attesa che il suo rivale arrivi, John pensa che in fondo loro due si possono considerare in perfetto pareggio. Si sono contesi per anni gli ascoltatori olandesi, ma forse, se tutto va come lui pensa, le cose potrebbero presto cambiare. Quando entrai nella mia sala riunioni, mi trovai di fronte quell'uomo di bell'aspetto, un bel po' più giovane di me. Direi quasi schivo e per niente il tipo che ti dà l'impressione di passare sopra i cadaveri pur di conquistarsi un punto di ascolto. Era tranquillo, ma non appena iniziò a parlare capì perché aveva costruito una casa di produzione di successo proprio come la mia. Era un tipo decisamente in gamba. John De Mol sta raccontando a Joop van den Ende la folgorazione che ha ricevuto leggendo l'articolo sulle vicende di Biosfera 2. L'esperimento effettuato nel deserto dell'Arizona vede 4 uomini e 4 donne rinchiusi per 2 anni all'interno di una cupola isolata dal mondo esterno. Quello che colpisce e intriga in modo particolare e profondamente John De Mol sono i risvolti psicologici della missione, che vede il crearsi di fazioni tra i partecipanti. John sta spiegando a Joop che mentre leggeva l'articolo ha avuto all'istante l'idea per un format televisivo. Costruire una casa interamente monitorata da telecamere, in grado di riprendere tutto quello che si verifica all'interno e farvi entrare per un certo periodo di tempo un numero variabile di concorrenti, che vengono poi eliminati dal pubblico attraverso una votazione in base ai comportamenti tenuti e al livello di gradimento. Joop è folgorato. L'idea è semplicemente sensazionale. Tienti bene dritto. Guardami fisso in faccia. Dimmi, Winston. E ricorda, niente bugie. Quali sono i tuoi veri sentimenti verso il Grande Fratello? Lo odio. Devi amarlo. Obbedirgli non basta. Devi amarlo. Nell'immediato dopoguerra, George Orwell scrive un libro per molti versi precursore dei tempi, che intitola 1984 e che è stato definito il romanzo distopico per eccellenza, in quanto racconta di una società che è l'esatto contrario di una società utopica. Dello stesso filone fanno parte libri di altri scrittori, come Fahrenheit 451, Arancia Meccanica, Il pianeta delle scimmie, tutti trasformati in film di enorme successo. In 1984 Orwell inventa un personaggio che chiama Big Brother, il fratello maggiore, tradotto in italiano con Grande Fratello, dittatore dello stato totalitario di Oceania. Nella società che l'autore descrive, ciascun individuo è tenuto costantemente sotto controllo dalle autorità. Lo slogan «Il Grande Fratello vi guarda» ricorda continuamente agli abitanti chi si trova al vertice della gerarchia. L'idea che il produttore televisivo olandese John de Mol ha appena raccontato al suo rivale di sempre Joop van den Ende, anch'egli produttore televisivo olandese, è talmente strepitosa che i due passano immediatamente sopra 15 anni di rivalità e battaglie per la conquista del primo posto nella guerra degli ascolti. Nessuno ha mai pensato di creare una trasmissione che mostri dal vivo, in diretta, 24 ore su 24, la vita di un gruppo di concorrenti rinchiusi all'interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno. Ispirandosi al libro di George Orwell, 1984, i due decidono di chiamare il programma Il Grande Fratello. Mentre stanno partecipando a una riunione di brainstorming nella sede di Amsterdam della John de Mol Productions, si rendono conto di avere appena creato un nuovo genere televisivo, il reality show. L'innovazione sta principalmente nel fatto che si mostrano le persone nella loro vita vera e nel fatto che il pubblico da casa vota in base all'emozione che ne riceve, non necessariamente in base alle capacità di un concorrente. Una riflessione che fa recentemente Maria De Filippi parlando del suo talent show Amici. Guarda, non so se è solo il talento, perché quello che vota da casa è un pubblico televisivo. Non so se al pubblico televisivo a volte interessi quanti giri o abbia la competenza di capire quanti giri fa un ballerino e poi premiarlo per il Grand Jeté piuttosto che altro. Certo che premia chi lo emoziona o la persona con cui si identifica. Quindi alla fine è giusto che vinca Amici chi, secondo il telespettatore, se lo merita. Se poi è il più talentuoso, sinceramente non lo so. John e Joop si ritrovano per le mani un progetto veramente unico, uno di quelli che impongono la creazione di una struttura dedicata. I due produttori sono riuniti per decidere come sarà la nuova società. È importante darle il nome giusto, ma i due non hanno tentennamenti. I loro cognomi, Ende e De Mol, si fondono nella Endemol. The Big Brother vede la luce in Olanda nel 1999 ed è un successo immediato. Nel giro di nemmeno un anno la Endemol vende il format in ben 45 paesi del mondo, trasformando di fatto John e Joop nei due uomini olandesi più ricchi in assoluto e tra i produttori più famosi nella storia della televisione. I due si trovano nel loro ufficio, hanno raggiunto un successo insperato e questo dà loro la possibilità di decidere del proprio futuro. Joop spiega al socio che intende dedicarsi di più al suo primo amore, il teatro. È così che nasce Stage Entertainment, casa di produzione di musical che realizza nel giro di pochi anni i più famosi musical di tutti i tempi. My Fair Lady, Evita, West Side Story, Titanic, Mamma Mia, La Bella e la Bestia, Sister Act. John comunica a Joop che lui, invece, intende occuparsi in prima persona della produzione non solo del Grande Fratello, ma anche di altri reality show e programmi di intrattenimento. Un genere che, ne è convinto, andrà sempre più per la maggiore. E ha ragione. Sono tantissimi i programmi di enorme successo prodotti da Endemol e dalle sue diramazioni nei vari paesi. Chi vuole essere milionario? Affari tuoi, 100 vetrine, Che tempo che fa, Le invasioni barbariche. Si tratta di programmi che, insieme ad altri, prodotti da concorrenti di Endemol, quali La Talpa, La Fattoria, Music Farm, L'Isola dei Famosi, rappresentano un innegabile fenomeno di costume che monopolizza l'attenzione dei media e sono oggetto di commenti tra i più disparati. Espressione estrema della televisione trash, esperimento sociologico, simbolo del mondo moderno, specchio della frivolezza dilagante, illusione creata dal mezzo televisivo. Il loro successo è un dato di fatto. Attualmente non c'è un giorno dell'anno in cui almeno un paese al mondo non trasmetta la propria versione del Grande Fratello. Segno che per John e Yop smettere di litigare è stata la scelta giusta.